30 minuti in cronaca di Gigi Donelli. Buonasera cari ascoltatori, benvenuti all'appuntamento con 30 minuti in cronaca. Questa sera parliamo di una corsa, parliamo di una maratona, molti lo sanno, domenica prossima, 15 aprile 2012, in una domenica che sarà ecologica, sarà anche la domenica della Milano City Marathon. Dunque un fenomeno sempre più importante, sempre più condiviso a Milano come in tutte le città italiane, ma sicuramente nel mondo. Insomma, emuli o meno di Forrest Gump, un vero e proprio movimento, quello del running, che negli ultimi anni ha coinvolto, attraverso tra l'altro classi di età, di reddito, di tutto, insomma, che ha coinvolto una enorme partecipazione. Ne parliamo questa sera perché all'interno della Milano City Marathon c'è anche una parte che sta emergendo e si sta affermando con grande forza, è quella delle charity, cioè in sostanza, adesso l'approfondiremo, di come attraverso un momento di condivisione, di sport, in famiglia, con gli amici, sia anche possibile sostenere dei programmi. Con noi in studio Marco Rampi, che è volontario di Medici con l'Africa QAM. Buonasera Marco, innanzitutto. Buonasera a voi. Dunque, per presentare innanzitutto questo genere, questa attività, Medici con l'Africa QAM è una delle ONG, è ovviamente, come dice il nome, un'organizzazione di medici che da ormai 60 anni è impegnata in Africa, cerca costantemente di raccogliere finanziamenti. E in che modo si aiuta questa attività e le altre di cui parleremo tra un momento attraverso una corsa? Marco. Questa è una bellissima opportunità che abbiamo per raccogliere fondi sicuramente e per avere visibilità. È un'attività che stiamo portando avanti sul territorio della Lombardia in particolare con il gruppo di Varese. Riteniamo che la corsa, l'abbinamento corsa e attività filantropiche abbia veramente un suo risvolto molto importante per la nostra organizzazione e in generale per il mondo delle organizzazioni no profit, laddove si riesce a coniugare il sudore e la fatica della corsa con il donare qualcosa di bello agli altri, che è sicuramente un po' la filosofia di fondo di questa nostra iniziativa. Allora, in Italia l'attività di volontariato ha radici veramente profonde, è estremamente diffusa, però io ho bisogno di un'informazione pratica. Allora, quando parliamo di Milano City Marathon, per esempio, parliamo di staffette, parliamo di un'iscrizione che costa 120-140 euro, allora, secondo il dei primo momenti. Cancello temporale 120 euro, il secondo 140. È passato, quindi esatto. 140 euro, di quei 140 euro che in questo caso quattro atlete appunto spendono per partecipare alla gara, quanto vale ONG? 40 euro, quindi 10 euro a testa per ogni staffettista. Allora, per fare un esempio, Marco, QAM, attraverso il tuo impegno in questo caso, Marco è un runner oltre che un fundraiser, quante staffette marchiate QAM saranno presenti a questa gara? Quest'anno facciamo veramente il botto, siamo molto contenti e siamo oltre a 120 staffette iscritte per Medici con l'Africa QAM. 120 staffette iscritte su un totale di 1500, ecco. Quest'anno l'organizzazione ha dovuto porre un tetto perché come dire, la gestione, poi ne parleremo appunto con chi lavora invece da quella parte di questa storia, però insomma possiamo anticipare che c'è stato un successo notevole, quindi ci saranno 1500 staffette, quindi 6000 persone che correranno sostanzialmente per appunto però comunque anche per sostenere dei progetti. Sì, la cosa bella è proprio questa, ci sono tante onlus, oltre 100 onlus iscritte a questo programma che sostengono, ognuna di queste onlus sostiene un progetto, un'iniziativa, quindi è molto bello vedere questa maratona di Milano che sposa i diversi progetti che ci sono da parte di tutte queste organizzazioni sul territorio. E se mi permetti Gigi, dico anche brevemente un'altra cosa: oltre alle quote che dicevamo prima poc'anzi di iscrizione, di cui una parte va a scopo benefico. C'è tutto dietro anche un portale di raccolta fondi, di Rete del Dono, dove le persone possono donare ulteriormente allorquando si sentono ancora più coinvolte all'interno di questa manifestazione, di questo progetto a scopo benefico. Diciamolo pure, 40 euro per 120 persone, insomma, non è proprio una svolta per una grande ONG, sono 5.000 euro circa. Però in realtà voi vi aspettate qualcosa di più, oltre a una cifra che comunque assolutamente sì. Il coinvolgimento, noi pensiamo che la gara sia un po' la scusa per coinvolgere le persone. Noi abbiamo visto che all'interno della nostra rete questo è stato un bellissimo motore di coinvolgimento e di partecipazione delle persone, quindi pensiamo che la raccolta fondi in realtà la faremo e la stiamo facendo con altri strumenti. Questo è solo e semplicemente un modo per coinvolgere la nostra rete, i nostri sostenitori, e speriamo e ci auguriamo anche tanti altri nuovi sostenitori. Insomma, per allargare anche una rete di sostegno, lo ricordo, nella seconda parte poi faremo il punto anche sulle numerose ONG che partecipano. Qui abbiamo l'esempio appunto di Marco Rampi con QAM, ma sono molte quelle che partecipano. Adesso io vorrei parlare invece proprio di corsa. Marco Rampi, come dicevo, oltre ad essere un fundraiser, è un appassionato di questo genere. Recentemente era in Africa, uno dei luoghi più belli del pianeta, il Kilimanjaro, il grande vulcano nella Tanzania del Nord, per una corsa che appunto però è pienamente inserita in questo assolutamente in idea. Sì, Gigi, questo progetto nasce proprio da questa passione personale che accomuna il sottoscritto con altri volontari dei gruppi in Lombardia. Abbiamo pensato di abbinare la nostra partecipazione quest'anno alla Milano City Marathon, alla Kilimanjaro Marathon, e quindi ho avuto il piacere di essere il 26 di febbraio giù a Moshi, alla base del Kilimanjaro, dove tre atleti disabili africani, a cui abbiamo donato una protesi sia per camminare che per correre, hanno corso la Kilimanjaro Marathon a staffetta. Sentiamo una testimonianza, poi ne parliamo. Il mio nome è Ayuen Deng Garang, ho 23 anni e sono sud-sudanese. Sono scappato dal mio paese in guerra e ho raggiunto il Kenya con mio zio e la sua famiglia a causa di un'infezione che mi ha colpito mentre mi trovavo nel campo profughi di Kakuma, in Kenya. Ho perso un arto. Oggi sono iscritto al secondo anno d'università in Business Administration. Lo sport è sempre stata la mia passione già prima che fossi amputato. Giocavo a calcio e mi divertivo ad andare in bici per il campo profughi. Quando ho perso la mia gamba destra, ho continuato ad andare in bici. Ricordo che organizzavamo gare con i bambini della scuola e, nonostante la mia disabilità, spesso vincevo io. Sono rifugiato in Kenya dal 1994, ma nel 2009 ho finalmente avuto il mio passaporto come sudanese della diaspora. Lo scorso anno il mio paese si è diviso dal Sudan e, nel mio piccolo, questo significa che il passaporto che ho in mano ora non vale più. Hanno iniziato a rilasciare il passaporto del nuovo Sud Sudan e spero che a breve lo diano anche a chi vive fuori dal paese. Sogno di poter correre nuovamente con le persone normali per dimostrare loro che, se siamo determinati e fiduciosi in noi stessi, possiamo farcela e rompere la convinzione che disabilità vuol dire inabilità. Spesso le persone non credono che sia amputato alla gamba. Mi vedono camminare normalmente, senza zoppicare. Cammino come una persona normale. Ma quando mi vedono in calzoncini corti, allora realizzano che sono disabile e mi osservano con uno sguardo diverso. Ayuen sarà tra i protagonisti settimana prossima della maratona. È dunque una delle storie che di fatto sei andato a raccogliere e a portare qui in città. Sì, questa è una delle quattro storie. Le altre storie sono storie molto difficili e allo stesso tempo molto belle. Mi piace ricordare la storia di Nasri, il ragazzo tanzano, che anche lui grande appassionato di sport, ha avuto questa disavventura giocando a pallone e si è ritrovato dopo pochi mesi con una gamba amputata. Vi racconto questa storia perché ho capito subito la sua passione per il calcio quando abbiamo corso la Kilimanjaro Marathon, e dove lui continuamente dava calci a tutte le bottiglie, bottigliette, i bicchieri che c'erano lungo il percorso, e devo dire che quella passione per il calcio non gli è assolutamente passata, anzi adesso che ha queste nuove protesi è ancora più leggero e quindi continuerà sicuramente a giocare a pallone e anche a correre. 30 minuti in cronaca. Ancora buonasera cari ascoltatori, dunque tra una settimana, domenica 15, la Milano City Marathon corre, invade, finalmente, come dire, speriamo anche con una partecipazione un po' più calda dei cittadini milanesi, perché gli anni scorsi devo dire che la città insomma sembrava un po' disturbata da questa grande festa. Sarà una domenica ecologica, quindi scordatevi le vostre auto, i vostri mezzi, state tranquilli, magari fatevi una corsa oppure partecipate a questa festa. E raccontandovi come dietro a una corsa di questo tipo ci siano in realtà molte più storie che quelle dei corridori, parliamo per questo del programma Charity. Avete sentito Marco Rampi che ci ha raccontato appunto come QA Medici per l'Africa partecipi e perché queste gare sono importanti. Adesso saluto e ringrazio di essere con noi Filippo Bianchi, che è responsabile del Charity Program della Milano City Marathon. Buonasera Filippo. Buonasera a voi, buonasera a tutti gli ascoltatori. Allora, stavo dicendo qualche minuto fa che a un certo punto avete dovuto mettere un tetto, 1500 staffette e non di più. Perché? Abbiamo dovuto mettere un tetto proprio per il successo che le staffette in particolare hanno riscosso, almeno finora. Ci siamo posti questo tetto di 1500 squadre per offrire ai runner che partecipano un evento di alto livello e nel contempo per permettere alle nostre charity di fare attività di personal fundraising e garantirsi la visibilità che meritano. Quante sono complessivamente? Dunque, per quest'anno ci saranno 115 charity, noi abbiamo iniziato nel 2010 con l'introduzione del charity program, grazie un po' all'intuizione del nuovo direttore della maratona Andrea Trabuio, quindi dicevo abbiamo iniziato nel 2010 con 17 onlus per arrivare l'anno scorso a 75. E quest'anno anche qua ci siamo posti un tetto, sembra un po' strano dirlo, ma a 115 proprio per garantire a tutte le nostre onlus la giusta attenzione che loro stesse meritano. Abbiamo detto che un terzo della somma va alle charity e va alle ONG che per il loro finanziamento, e Marco Rampi ci ha spiegato quanto in realtà sia però importante anche come dire, alimentare di idee, di contatti la rete. Dal punto di vista del business, della maratona, quanto valgono le charity? Ma hanno un peso molto molto importante, innanzitutto perché non sono esclusivamente legate alla gara staffetta, che è appunto la novità introdotta nel 2010 insieme al Charity Program, ma in generale al, passami il termine, prodotto maratona. Certo. Per cui loro attraverso la loro rete, attraverso i loro social network, attraverso le comunicazioni che fanno, ci aiutano non soltanto dal punto di vista di raccolta runner e quindi di nuovi iscritti, ma soprattutto a comunicare a maratona sul territorio, sul loro territorio di riferimento, a far partecipare i runner, ma a questo punto non solo i runner, perché poi c'è un indotto molto molto importante composto da tutti i loro sostenitori, dagli amici, dalle persone che sostengono poi a loro volta le persone che fisicamente prendono parte alla gara staffetto o la classica 42 km, e quindi ci permettono di creare quel famoso contorno all'evento di cui accennavi anche prima, far sì che intanto i runner che partecipano alla gara vivano in un contesto molto interessante, molto accattivante la gara stessa, e la città possa vivere l'evento a 360 gradi anche attraverso tutte le altre attività collaterali che anche qua sempre attraverso le onlus, ma non solo, andiamo ad organizzare. Insomma, anche come una grande festa con un contenuto, un modello che si ispira, è bello anche ricordarlo quest'anno che siamo ormai diretti idealmente verso i Giochi Olimpici a Londra 2012, un modello che a Londra si è ispirato molto prima dei giochi. Assolutamente sì, il nostro esempio, quello a cui miriamo, è proprio la Maratona di Londra, che ha una storia molto più antica, se vogliamo, della nostra. Già nel 1981, quando nasceva la Maratona di Londra, quindi ormai 32 edizioni fa, con quella del 2012, nasceva anche lì il loro Charity Program, e vuoi per la cultura anglosassone che da questo punto di vista è sicuramente più avanti di quella italiana, ha riscosso un grandissimo successo. Basta pensare che per 2 anni consecutivi la Maratona di Londra, quindi un evento sportivo, un evento di partecipazione di massa, è stato nel Guinness dei primati come l'evento più grande al mondo per quanto riguarda il fundraising. Solo l'anno scorso hanno raccolto una cifra per noi strabilianti di quasi 52 milioni di sterline in un'unica 52 edizione. 52 milioni di sterline? Sì, 51.8 per la precisione, secondo i dati ufficiali che ci ha fornito l'organizzazione. Enorme. E dal 1981 oltre mezzo miliardo di sterline. Quindi, Filippo, Milano quanto punta quest'anno? Milano punta a migliorare sicuramente quanto ha fatto nell'anno scorso. Siamo ancora, per dire, in fase embrionale, quindi ci attestiamo sicuramente su cifre molto molto più piccole. No, non fare il timido, dici quanto? Ma direi che cerchiamo di avvicinarci il più possibile verso una cifra intorno ai 700.000 euro. Poi d'accordo, forse è meglio spiegare anche il perché questa cifra, che poi, come dire, si compone di tante voci, no? C'è una parte che è quella della quota di iscrizione, che come dicevi tu è più o meno un terzo della quota di iscrizione va in beneficenza, ed è il lavoro che fa l'organizzazione di fatto, perché permette a tutti i runner di scegliere una onlus a cui destinare una parte della quota, ma è un lavoro che fa l'organizzazione, non il runner stesso. Quello che chiediamo poi ai runner, e chiediamo anche attraverso le nostre ONP, è quello di stimolare, stuzzicare i propri sostenitori, i propri runner a raccogliere presso il proprio network sociale, quindi gli amici, parenti, colleghi, gli stessi compagni di corsa, per cui è lì che si fanno le grandi cifre ed è lì che la Maratona di Londra ha puntato ormai già da diversi decenni e sta riscuotendo tantissimo. È da lì che Milano e tutte le maratone italiane evidentemente possono crescere. Grazie a Filippo Bianchi, lo ricordo, responsabile del Charity Program della Milano City Marathon. Un'ultima battuta: il tetto, abbiamo detto, a 1500 per le staffette, quindi non ci si può più iscrivere, ma sul piano individuale si può ancora o no? Assolutamente sì, ci si può ancora iscrivere, sempre consigliamo di farlo attraverso una delle nostre halls sul sito internet milanocitymarathon.it, ci sono tutte le informazioni per poter prendere parte direttamente alla nostra festa, ma anche semplicemente le informazioni per assistere alla gara vedendo passare i runner e sostenendo i nostri runner il 15 di aprile. Grazie a Filippo Bianchi, grazie di essere stato con noi. Allora andiamo a concludere invece con Marco Rampi. Direi che abbiamo dato un quadro abbastanza, spero, esaustivo di questo evento. La corsa è un fenomeno sociale, culturale, che si è diffuso e che tocca anche una fascia d'età molto importante, perché è un pubblico adulto, sono uomini ma sempre più donne che corrono, e creano anche una cultura dello sport, una cultura anche che vuole essere quella di un atteggiamento di aiuto. Nel caso del QAM, del lavoro che tu svolgi appunto con Medici con l'Africa, coltivare questa caratteristica molto diffusa in Italia è prezioso. Assolutamente fondamentale. Mi piace sottolineare un aspetto: noi quest'anno, all'interno di queste oltre 120 staffette che partecipano, abbiamo sia persone di una certa età, diciamo così, sia persone molto giovani. Abbiamo coinvolto delle scuole, in particolare il collegio e l'istituto De Filippi di Varese. Verranno 40 ragazzi da una scuola superiore a correre con noi, e riteniamo che questo sia veramente un bel segnale di speranza e di gente che si vuole impegnare. Grazie a Marco Rampi, lo ricordo ancora, fundraiser volontario per Medici con l'Africa QAM. Vogliamo ricordare il sito? Sì, www.medicicollafrica.org. Grazie a Valeria Bernardi in regia questa sera. L'appuntamento con 30 minuti in cronaca, come sempre, sabato prossimo intorno alle 19:30. Buon fine settimana.